Blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Caterina, sei già uscita dal tuo abitacolo, cara? Sì, signore. Bene, ma tu parli? Sì, signore. Ti riconosci? Ti ricordi di me? Sì, signore. Caterina si ricorda. Chi sono io, Caterina? Il mio padrone. Brava, brava Caterina. Ti si sono accese le luci. Stai elaborando, vero? Non ti stancare, sai, cara? È notte e il tuo padrone va a dormire. Ci rivediamo domani, Caterina. Buonanotte. Questo da un punto di vista minimale è il sogno di tutti gli Alberto sordi dell'universo, averci una donna qui, dire il tuo padrone è qui, vai a dormire, si spengono le lucette, si ripone nel suo armadietto e quando uno vuole col telecomando la riattiva. È un sogno minimale, lo era negli anni 60, in cui si immaginava la robotica come un mondo lontano su cui scherzare, ma che mai avremmo attraversato. In realtà gli esperti di futuro che sono stati intervistati dal magazine The Mirror dicono che è questione di tempo, da qui a una quindicina d'anni sarà normale intrattenere rapporti profondi con le macchine come oggi è normale per le persone incontrarsi sui social network, ma da qui a 50 anni sarà considerato nella norma, come oggi è nella norma comunque, rivendicare unioni tra persone dello stesso genere, avere rapporti sessuali con macchine. Ci saranno dei robot che saranno talmente perfetti dal punto di vista della loro costruzione, la materia con cui sono fatti, dalla capacità di relazionarsi, ma anche dalla capacità di essere docili ai nostri desideri, ma allo stesso tempo sufficientemente indocili perché ci diano il palpito di essere qualcosa che assomiglia a un essere umano, per cui dobbiamo rassegnarci. Le macchine comunque conviveranno con noi, forse noi all'inizio della nostra evoluzione altro non eravamo che dei prototipi di macchine e siamo diventati questo. Deve preoccuparvi questo futuro, ma fra 50 anni preoccuperà chi ancora non ha l'età della ragione per sentire la radio a quest'ora, non certo noi che ormai fra 50 anni saremo cibo per vermi. Però ci sono altri segnali molto, molto evidenti che in realtà la robotica, che sembrava essere retaggio soltanto dei più avanzati luoghi in cui si progetta il futuro, ma allo stesso tempo può popolare la fantascienza, i sogni inimmaginabili dell'uomo che riesce a creare un altro uomo, è un mito antichissimo, antico come l'umanità. Di solito l'uomo che prova a riprodurre se stesso viene sempre irrimediabilmente colpito dal suo gesto di spocchia nei confronti del grande creatore. Oggi che sulla creazione ci si confronta anche su temi un pochino più razionali piuttosto che un grande creatore dell'universo, si rende anche possibile l'idea che ci possano essere delle macchine che in qualche maniera sostituiscano o perlomeno integrino l'umanità. Su questo oggi voglio informarvi perché ci sono veramente le novità e si sta muovendo qualcosa al di là del fatto che noi già viviamo circondati da macchine pensanti, ma forse non ce ne rendiamo conto. Vi spaventa il futuro accanto ai robot? Trovate molto lontana dalla vostra plausibile esistenza la possibilità di avere un amante, un fidanzato, una persona con cui passare la vita che in realtà sia una macchina? Quante macchine avete accanto e non ve ne accorgete? A tra poco. Melog. Cronache meridiane. .800240024, il tema è oggi, siamo pronti ad affrontare un futuro che in realtà è già una equazione che viviamo nel presente, in cui le macchine saranno assimilabili agli esseri umani, in cui avverrà questa sorta di magica fusione fra organico e inorganico, il mondo che la fantasia creatrice degli autori cyberpunk avevano profetizzato negli anni 90, in cui uomini e macchine vivranno assieme, a volte inconfondibili gli uni dagli altri, è già parte della nostra attualità. Vi spaventa, vi affascina, trovate che ci saranno dei problemi comunque di gestione della società. Il primo problema potrebbe venire proprio dall'antichissimo pregiudizio nei confronti delle macchine che aiutano gli uomini a lavorare. Il luddismo nasce proprio da questo, dalla capacità di percepire un'evoluzione dell'umanità in una dimensione anche tecnologica. Questa mattina c'è una notizia in esclusiva sulla stampa di Torino: Amazon porta i suoi robot in Europa. Il negozio infinito, immaginate, un grande luogo in cui tutte le meraviglie che fanno parte della nostra ansia, della nostra lussuria consumistica, vengono stoccate, organizzate, spedite, inviate, immagazzinate. Fa tutto la macchina, una grande mente, un grande robot, come fosse una sorta di Matrix, però dedicata non alla ricostruzione artificiale del mondo, ma all'appagamento del nostro desiderio di acquisto. Il reportage della stampa è di Beniamino Pagliaro. Beniamino Pagliaro, buongiorno. Buongiorno Gianluca, a tutti gli ascoltatori. Ecco, spiegaci bene questa tua notizia dettagliata e particolareggiata, perché a fronte di questa notizia naturalmente comincia ad esserci la preoccupazione dei manifatturieri italiani: come arriva il robot di Amazon in Europa, quindi che sarà di noi? Spiega innanzitutto di cosa si tratta. Allora, la notizia è che Amazon ormai dal 2012 utilizza nei suoi centri degli Stati Uniti questi robot che si chiamano Kiva, sono stati acquisiti da una società ancora qualche anno prima. Sono dei robot che aiutano il lavoro nei magazzini e di fatto lavorano con gli umani, quindi non ci hanno ancora sostituito del tutto. Quando la merce arriva in un magazzino, sono direttamente i robot a archiviarli in un modo che a noi potrebbe sembrare stupido, ovvero casuale. Non c'è una gerarchia come noi ci potremmo immaginare nella libreria di casa nostra, bensì è casuale. E quando poi noi facciamo l'acquisto sul sito, il robot automaticamente, grazie a un algoritmo, un software che è stato già scritto e impostato in realtà da un umano, va nel luogo dove il prodotto è e lo porta direttamente all'operatore. Per far capire a chi ci ascolta la radio, che non vede le immagini davanti il tuo pezzo, su una specie di quegli aspirapolvere automatici che vanno da soli per casa, arancioni grandissimi, che distribuiscono secondo un ordine che per noi è casuale, ma che in realtà è l'efficienza che la macchina ha stabilito, tutta la merce. La portano qua e là, e quando è il momento sanno loro dove andarla a prendere. Esatto, sono da vedere, sono anche sembrano innocui e sono delle piattaforme arancioni che possono portare 340 kg e si spostano, sembra quasi una danza, perché si muovono silenziosamente, nessuno li sta muovendo, sono loro, o meglio siamo noi che, avendo comprato quel prodotto o un altro, li facciamo muovere e li facciamo correre il più veloce possibile fino all'operatore. Ma tu, Beniamino, che sei stato in questo posto qua, non hai avuto l'impressione, quasi, non so, io immagino che potrei avere questa impressione epidermica, di una grande intelligenza impalpabile che manovra tutto nell'ambito di questo grande open space dove si muovono delle macchine insieme agli uomini, ma le macchine hanno come una loro autonomia, come ci fosse una mente che le guida. Non avevi l'idea di questa presenza difficile da definire? È esattamente come dici, ed è anche quello che ho scritto. Sembra quasi di voler vedere a tutti i costi un direttore d'orchestra, quando in realtà il direttore d'orchestra è il software, non c'è, e quindi è davvero una danza di questi robot che si muovono. Però c'è da dire che è una nostra visione novecentesca, che appunto abbiamo visto troppi film di fantascienza. Dobbiamo sempre pensarci, se è una mente superiore che comanda tutto. Umanizziamo sempre dei robot che in realtà sono eseguono degli ordini che noi diamo loro. Ecco, nell'applicazione pratica cosa cambierà questo? Amazon lo porterà in Europa, ma chi ne usufruirà poi di questo meccanismo, di questo sistema, che è un sistema, non è che è un robot, è un sistema di macchine integrate fra di loro che svolgono una funzione importante, che è classificazione, acquisto, distribuzione, vendita, gestione clienti, tutte queste cose qua. Senti, hai visto la pubblicità che Amazon già da un annetto mette in giro, le consegne con il drone porta a porta? Sembra un po' difficile, ma arriveremo con l'elicotterino che ci consegna il pacco davanti casa? Quella sembra fantascienza vera, ma in realtà loro ci stanno lavorando. Poi quando gliene ho chiesto non hanno voluto dire niente. Sapete che è un'azienda che tipicamente tiene nascosta, forse anche legittimamente, le proprie scoperte. Però loro ci stanno lavorando. Negli Stati Uniti dovrebbe arrivare un'autorizzazione della Federal Aviation Administration, quindi è ancora lontano, ma arriverà. Ciò che significa questa notizia in realtà è una conferma. In Italia ci sono tante aziende che già lavorano con con fabbriche automatizzate, e tu dicevi all'inizio che cosa farà la manifattura italiana. In realtà i robot possono essere un alleato per la manifattura italiana, che ha una grande tradizione di invenzione di macchine, e se pensiamo anche nel settore automotive è una dei grandi asset dell'economia italiana, insomma. E quello che cambierà per Amazon è che da quando sono arrivati i robot gli ordini sono passati dalle ore ai minuti, e quindi questo consente loro di avere ancora più clienti, di far crescere ancora il numero di ordini, ed è tutto un circolo virtuoso su cui loro puntano. Quello che deve far pensare a noi come clienti, come imprenditori, come sistema italiano, è come introdurci in questa tendenza, come mettere anche noi questa intelligenza artificiale al lavoro per migliorare le nostre aziende. Però guarda, è immancabile la riflessione che fa ognuno. È brutto dirlo, perché questo mette in crisi un'infinità di persone, di attività, di imprenditoria. Ma una volta che uno ha capito che ordinando un oggetto in rete ce l'hai veramente nel giro, ancora non di poche ore, ma di una giornata molto spesso, sotto casa, a un prezzo competitivo rispetto a quanto lo troveresti andandolo a cercare in un negozio, non hanno mai il modello che ti serve e devono ordinartelo, devi fare delle file, devi muoverti, comincia a essere difficile da difendere la maniera tradizionale di andare a comprare un oggetto, il contatto fisico con la merce, io voglio toccare con mano. Sì, è vero, ma oggi il tempo che guadagniamo rispetto a quello che impieghiamo nei momenti di passaggio da qui a acquistare qualcosa, trovare qualcosa, lo possiamo usare diversamente. È vero, hai perfettamente ragione. Uno dei grandi timori, diciamo, dell'arrivo dei robot è quello di quanti lavori porteranno via, no? Amazon ci dice che da quando loro hanno introdotto i robot nei loro centri di distribuzione, in realtà il lavoro è aumentato, perché i robot hanno portato più efficienza, la più efficienza ha portato più profitti maggiore, quindi sono anche aumentati il numero di lavoratori. È indubbio però che come diciamo poi da anni, quel genere di lavori che non ha un valore aggiunto, che può essere fatto da un robot, oggi possiamo dire così, è possibile che scompaia a breve. Si parla di milioni di lavori che potrebbero non esserci più, però ne cresceranno altri, la gente dovrà specializzarsi di più, certo. Questo non vuol dire che l'esperienza in un bel negozio dove c'è un commesso che sa davvero aiutarci la vorremmo ancora fare, però dovrà essere un'esperienza. Sì, ma sarà come andare a teatro, andare una sera a vedere una bella cosa, andiamo a comprare in un negozio dove ancora c'è un essere umano. Esatto. Qui sotto la radio c'è una bellissima storica libreria di Roma, oggi c'è un negozio di cinesi, impazziamo tutti perché c'ha dei marchi ingegni che a noi ci sembrano indispensabili a sopravvivere, ogni giorno ci passiamo le giornate, nella libreria non ci entravamo mai, ordinavi un libro bisognava aspettare una settimana che ti arrivasse, capisci? È brutto dirlo, perché questo suonerà come una bestemmia per gli appassionati dell'antica vecchia maniera di avere il libraio di fiducia, ma è così, è indubbio, non ci andavo più perché tanto i libri aspettare troppo tempo, me li facevo arrivare. Sentiamo qualche ascoltatore, aspetta un attimo. Dino, buongiorno. Sì, buongiorno, Dino Verona. Volevo solo segnalare che mi sembra non una grandissima scoperta, nel senso che la farmacia dove vado io, sì, saranno 10 anni che c'è un robot. Sì, vabbè, non è esattamente quello che prende le aspirine e i preservativi e glieli porta sul banco, non è quella roba lì. Vabbè, ho capito, però voglio dire, sempre una specie di. Sì, ma è un'altra cosa. Ma quello è un attrezzo che prende la roba nei cassetti e gli riporta, che gli chiede il farmacista. È un po' diverso qua. Qua ha una sua intelligenza nel sistemare le cose, prenderle e ordinarle. Beniamino, scusami, rispondi all'ascoltatore Beniamino Pagliaro, perché è chiaro, noi tendiamo tutto a radicalizzare. La macchinetta della farmacia diventa il robot 10 anni prima. No, ma l'ascoltatore può avere ragione. La parte che uno scopre andando là è che, per esempio, queste macchine, questi robot capiscono come lavorare meglio con le persone, e quindi riconoscono l'operatore dal suo codice a barre, dalla sua storia, da come ha lavorato precedentemente, e quindi si adeguano per esempio alla sua altezza, si adeguano per esempio al suo ritmo di lavoro per non pressarlo. Ci sono tutta una è un software, quindi è evidente che siamo noi la parte intelligente e siamo noi a scriverlo, però l'intelligenza artificiale fa sì che per esempio questa gara di robot che parte appena arriva un ordine non è in grado di mettere in ordine le varie priorità, è in grado di non far scontrare i robot, quindi stiamo parlando dei passi avanti. Poi la robotica c'è in ogni parte delle nostre giornate, qua ne parliamo ed è una notizia perché grazie all'impegno e alla forza di questi colossi stiamo capendo che è un fenomeno che sta diventando globale. Sì, però è l'atteggiamento tipico del nostro paese, ci si dice adesso che in California fanno delle cose che non ci abbiamo già, e poi dopo, quando arriveranno le cose, staremo tutti a piangerci addosso, a stracciarsi le vesti. Io intanto ringrazio Beniamino Pagliaro che oggi ha pubblicato sulla stampa questo suo reportage molto interessante, andatelo a vedere. Lasciamo un attimo la linea e riprendiamo tra un istante. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Melog. Cronache meridiane. .00240024, oggi parliamo del nostro futuro robotico, cioè quanto noi cominceremo realmente a avere consapevoli e coscienti rapporti con macchine che svolgono funzioni umane, sempre in maniera più raffinata, sempre in maniera forse per qualcuno più invasiva, comunque sia presto avremo macchine accanto. Già abbiamo macchine, ma scusate, ma la nostra coscienza di relazionarci con altri esseri umani è affidata a una macchina. Nel nostro smartphone esiste tutta la nostra vita relazionale, non è una macchina quella, non è una protesi delle nostre emozioni. Quello prima avevamo a mente e ricordavamo e ci ricordava dell'esistenza di altre persone, oggi è una macchina che ci avverte. Un alert vuol dire che qualcuno ci ha scritto sul nostro WhatsApp, quindi è la macchina che in fondo supplisce parte della nostra coscienza. E perché allora non potrebbe accadere che tra 50 anni quella stessa macchina ci darà la stessa emozione che oggi ci dà un essere umano, visto che oggi ce l'annuncia? Massimiliano Colella, buongiorno. Buongiorno. Direttore generale di Asset Camera, che è l'azienda speciale della Camera di Commercio e promuove e organizza la Maker Faire a Roma, che non è la prima edizione, ma la Maker Faire è la grande fiera, chiamiamola così anche se il termine non è esatto, degli artigiani del web dell'ultima generazione, il web che produce oggetti, non produce soltanto codice incorporeo, ma produce oggetti. Dal punto di vista, poi mi corregga se ho detto inesattezza, questa è la mia lettura perlomeno, perché vi conosco e vi frequento, dal punto di vista della robotica, ci sono delle novità nel Maker Faire di quest'anno, che sarà a Roma, lo ricordiamo, dal 16 al 18 ottobre, poi mi dirà dove esattamente. Sì, no, inesattezze no, perché esattamente gli artigiani del web, gli artigiani digitali, quelli che usano le tecnologie digitali e le innestano sulla grande tradizione manifatturiera italiana per, come dire, per ridare prodotti più innovativi e sicuramente che riscuotono grande successo nel mondo. La Maker Faire quest'anno si tiene alla Sapienza, nella grande università di Roma. Abbiamo scelto quella location proprio per, come dire, portarla lì dove c'è ricerca, dove c'è innovazione, dove c'è futuro, dove ci sono i giovani che cercano, come dire, nuove speranze. No, anche per fortuna nuovi. Perché finalmente ho trovato un punto di contatto con l'accademia tradizionale. Sono sempre, questo è un gioco per dei poveri smanettoni appassionati un po' strani, e invece lì si progetta il mondo che verrà o che già sta accadendo, che ancora magari nelle grandi accademie non se ne sono resi conto. Sì, hai fatto, mi permetti di darti di ma tu, certo. hai fatto una sintesi perfetta, esattamente. Così come le tecnologie si innestano su una manifattura tradizionale, credo che era giusto, forse era anche doveroso portarla all'interno, lì dove si fa la ricerca. Ecco, dimmi dal punto di vista dei robot, visto che questo è il tema è oggi, cosa c'è di prototipo che potrebbe farci riflettere rispetto a questa nuova deriva di connubio felice con le macchine? Ma guarda, ti dico che apriamo proprio con una conferenza iniziale che si terrà venerdì mattina dalle 11:15 nell'aula magna del rettorato, dove ci sarà Walkman, il robot dell'Istituto Italiano di Tecnologia che ha vinto e partecipato alle Olimpiadi dei robot. E cosa fa questo qua? al momento. Praticamente corre, è un robot che corre, progettato nel grande istituto italiano di tecnologia, e il titolo della nostra apertura si dice Life with the Machines, cioè come sarà la vita con le macchine. Ci sarà il keynote, sarà affidato a Roberto Cingolani, che è il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, un robot di 1,90 m che ha vinto le Olimpiadi e quindi corre, un robot che è un umanoide, diciamo. Comincia a essere, diciamo, si comincia a avere questa zona percettibile in cui tutto ciò che noi abbiamo immaginato come fantascienza in realtà già convive in realtà con la contemporaneità, e questo è il senso. Sentivo i discorsi che facevate prima, è contemporaneo. Io ho 49 anni, per la mia generazione forse è tutto nuovo, no? Ma per i miei figli che hanno 11 anni, come dire, internet è scontato, lo smartphone è scontato, il collegamento, YouTube è tutto scontato. Per noi, come dicevi te, giustamente è un po' tutto nuovo, quindi dobbiamo adattarci, come dire, a questo nuovo modo di interagire, a questo nuovo modo di relazionarsi. Ce n'è un altro di progetto legato al robot? A me che sì, ce ne sono tanti altri, te ne segnalo tre. C'è per esempio quello fatto da una scuola che è l'ITIS di Rossi di Vicenza, perché noi abbiamo 30 scuole selezionate con una call fatta quest'anno su oltre 150 scuole che hanno partecipato, che è uno shopper, un assistente per lo shopper, nel senso che è un carrello robotico che ti segue grazie a una tecnologia a infrarossi, e ne stanno sviluppando un nuovo prototipo che attraverso una telecamera 3D riconoscerà la fisionomia dell'utilizzatore, no? E quindi tu puoi portare carichi pesanti su questo robot che ti segue, quindi immagina quanto risparmio, quanta fatica in meno e quanta precisione in più forse anche, no? E poi c'è un altro robot chiamato Titanus, fatto da alcuni maker, cioè da ragazzi, da smanettoni. Ecco, per far capire che questi sono ragazzi che oltre a applicare il cuore, cioè il microprocessore che lo fa muovere, lo costruiscono anche manualmente, cioè fanno i pezzi che lo costruisce, e questa è la differenza. Una volta c'era lo sviluppatore che pensava al software, poi lo affidava a un'azienda che faceva quel pezzo, quell'altro pezzo, un'altra azienda lo assemblava. Oggi fanno tutto ex novo. Sì, sì, oggi parliamo infatti di autoproduzione, che come dire, quindi anche di una nuova imprenditorialità, perché legata all'autoproduzione c'è una nuova imprenditorialità. Adesso tu puoi comprare una scheda, costruirti il tuo robot, la tua stampante 3D, esistono, come dire, sulla rete open source istruzioni, kit di montaggio, li compri, li fai, insomma, puoi farti tutto a casa da solo, e con una tecnologia peraltro anche a basso costo, non necessariamente cara come era tanti anni fa, perché ti dovevi affidare a degli esperti. Questo robot per esempio costruito da questi ragazzi è 55 centimetri di altezza, pesa circa 30 kg, a 20 gradi di libertà, è in grado di muoversi, sentire e capire la vicinanza con altri oggetti. Il prossimo passo, dicono loro, sarà quello di dotarlo addirittura di una visione artificiale. È bello nella descrizione che c'è scritto: dovremmo cambiare il suo cervello, cioè quel microchip che ha. Allora fermo un attimo, sentiamo un ascoltatore. Massimo Collella ha parlato. Pietro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io non metto in dubbio che i robot devono sostituire gli umani, però così accadrà, sì. Ma c'è grandi aziende, sai quando aziende verrà mandata a casa? Ma abbiamo già detto prima, ecco. Innanzitutto non si ferma il mondo per la paura di mandare la gente a casa. No, però sarà così preciso. È crudele, ma è così. Sì. Sarà così preciso il robot che non può essere mai con un essere umano, cioè una mente come un essere umano. Ma questo che sbagliare. Sì, sicuramente sbaglia. Purtroppo le macchine sono molto più efficienti. Il suo datore di lavoro, il titolo, cioè, il suo padrone. A volte è un vantaggio non avere un rapporto emotivo col proprio padrone, o proprio datore, poi uno che ancora chiama il datore di lavoro padrone, evidentemente. Ancora, diciamo, degli strumenti da affinare nel comprendere l'epoca in cui vive. Professor Giorgio Metta, buongiorno. Buongiorno. È un ingegnere robotico, vice direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e direttore di iCube Facility, che ha progettato iCube, che è un cucciolo di robot. innanzitutto un commento rispetto a quelle che sono mentalità corrente, rispetto a un robot pensa sempre o un nemico o qualcosa si deve rivoltare contro l'uomo come gli antichi golem, oppure qualcosa che in fondo desta sospetto. È d'accordo con me che comunque è immancabile che avverrà questo passaggio graduale di funzioni dall'umano alla macchina? Sono d'accordo, e se guardiamo poi la storia della nostra civiltà, l'uomo ha sempre costruito degli strumenti, a questo punto sta costruendo degli strumenti che potranno fare molto del lavoro manuale in maniera automatizzata. Perché no liberarci di parte di questo lavoro manuale, considerando anche che abbiamo una popolazione che invecchia, abbiamo un futuro che vedrà sempre di più delle persone che non lavoreranno, o comunque saranno sempre meno quelle che potranno lavorare, per cui ben vengano le macchine. A proposito di questo, visto che oggi descriviamo come se noi cominciassimo a descrivere una popolazione che ancora conosciamo poco, iCube, di cosa si tratta? Rispetto ai modelli che sono stati, di cui abbiamo parlato in maniera superficialissima, però oggi vogliamo dare l'idea che i robot già ci sono, esistono, sono usciti dai giornalini di fantascienza e dai film. Sì, iCube fa parte della, un po' così, dell'ecosistema della robotica dell'IT. È dedicato più che altro al momento alla ricerca, chiaramente, perché stiamo parlando sempre di ricerca, all'interazione con l'uomo, quindi è un robot che è stato progettato per poter interagire in maniera sicura con l'uomo, vedere l'ambiente che lo circonda, poter fare ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale con una piattaforma completa. È umanoide, ha le mani, può prendere gli oggetti, può camminare, si sposta, tutta una serie di sensori che sono tipici dell'uomo, la pelle per esempio, con cui sente il contatto con gli esseri umani. Ma qual è il passaggio che ancora manca perché si realizzi questa sorta di utopia che qualcuno spaventa, qualcuno invece molto affascinato a questa idea? Scrive un ascoltatore, dice: non vedo l'ora che arrivino le macchine che ci sostituiscano gli esseri umani nei rapporti amorosi, così almeno ci saranno meno problemi. Qual è il passaggio che manca? È questione soltanto di hardware, cioè bisogna trovare una pelle che assomigli più possibile alla pelle umana, o già esiste, o è proprio una questione di funzionalità? Ancora gli manca qualcosa per darci l'impressione di aver vicino un essere con una sua autonomia, un suo pensiero, una sua individualità? Direi entrambe le cose. L'hardware probabilmente verrà prima, sarà un pochino più facile da realizzare, la sua personalità è ancora lontana. Io mi immagino un futuro prossimo dove queste macchine saranno un po' come uno smartphone, quindi potranno fare certe cose ma non potranno conversare con noi in maniera completamente naturale, però saranno utili. Quindi, diciamo, è il passaggio fra il mattoncino della Motorola degli metà anni 80 agli smartphone che abbiamo adesso, più o meno. Esatto, immaginiamoci uno smartphone che però è in grado di agire nel mondo, avrà le mani per prendere gli oggetti, però con un'intelligenza che non sarà quella di un essere umano. Questo, diciamo, è il primo passo. Ecco, la fase intermedia saranno belli come noi probabilmente, forse anche più, ma ancora non saranno un po' scemotti. Man mano che andrà avanti nel tempo ci sorprenderanno. Fermiamoci un attimo a dare la linea, se rimane con noi ancora qualche istante professore, poi ho un'altra domanda da farla, tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, ci avviciniamo comunque al mito che diventa realtà: la macchina, l'essere inanimato, il golem, l'homunculus comincia a far parte degli esseri umani, anzi si confonde con loro. Questo sta realizzando Carlo, non so dove, nel suo garage, nella sua officina. Cosa ha combinato, Carlo? Ciao Nicoletti. Sì, sono Carlo, il precario dei pompieri. Visto che il Ministero degli Interni non ha investito in me, io nel mio tempo libero mi sono dedicato alla costruzione di un robot che è tra CP-38 di Star Wars, il Golem di Metropolis, però ha le sembianze più della Golden Woman di 007. Cioè, ti sei comprato una bambola gonfiabile? No, la no. Sto costruendo. Ah, la stai costruendo? Vabbè, sì. E i pezzi, con qualche materiale usi? In questo momento diciamo che la struttura portante è una struttura in fibra di vetro e però è ferma, di silicone. Sì, però è inerte, è come un manichino, perché come fa a muoversi se è in fibra di vetro? fibra di vetro sono le parti ovviamente tipo ossee. Ah, quindi è articolato? Le articolazioni, assolutamente sì, assolutamente. La mobilità è indispensabile. E cos'è che lo fa muovere, diciamo? Qual è il cuore di questo robot che sta costruendo? Che interessante. C'è una piccola, ci sono delle pompe idrauliche un po' utilizzate come ammortizzatori anche nel mondo della bicicletta, eccetera. Lei ovviamente è corredata, dovrà essere per le mie capacità, di un piccolo motore, cioè di un generatore elettrico, sì, di quelli silenziosi. Diciamo che la tecnologia adesso è andata un pochino più avanti, già ovvio, del genere usano delle schede che sono diverse. Tu sei immaginato la donna con le pompe, col motorino, non è esattamente quello che in questo momento pensiamo di poter fare. David Orban, buongiorno. Buongiorno. David Orban è una persona che da anni sta studiando e immaginando quali sono le evoluzioni che sta già avendo l'umanità a contatto con le macchine, le quali noi non percepiamo. È un esperto di conoscenza dell'accelerazione e cambiamento tecnologico. Senti, questo è un ascoltatore che sta raccontando una sua allucinazione, sta costruendo un robot, si sta facendo una sorta di simulacro, un pupazzo, non so bene cosa, ma esattamente, tu vedi così lontano e improbabile un futuro in cui uomini e macchine comunque saranno qualcosa che si muoveranno abbastanza all'unisono, non dico inconfondibili tra di loro, ma abbastanza intercambiabili in alcune funzioni, anche in quelle che reputiamo sacre, intoccabili, intangibili, come appunto la gestione di una relazione? E da 100.000 anni o 200.000, da quando abbiamo scelto il fuoco per digestire il nostro cibo, che stiamo coevolvendo con la tecnologia, quella meccanica che Karel Čapek con il neologismo dei robot ha immaginato e che noi abbiamo fatto nostra, è uno stadio di questa evoluzione che è un continuo, però estendere la capacità empatica alle macchine è qualcosa che abbiamo fatto come artisti, come sonettisti, come scultori da sempre, e lo stiamo adesso facendo come ingegneri, come scienziati, come scrittori di fantascienza. Chi si spaventa di questo non deve pensare a una sostituzione, deve pensare ad una estensione delle opportunità e alla capacità di antropomorfizzare e di rendere anche intelligente il mondo inerte. Stefano Morigi è un filosofo della scienza che molte volte abbiamo chiamato per vari argomenti, questo è un argomento che abbiamo trattato spesso assieme. Proprio in conclusione, rispetto a quello che ha detto Orban, che lui già immagina e vede come attuale, coerente questo passaggio, sei d'accordo che l'evoluzione dell'uomo avviene anche attraverso le macchine, quindi quello che stiamo pensando altro non è che l'immaginazione o la profezia non è il termine giusto, perlomeno è capire quello che saremo noi da qui a qualche tempo, proprio perché ci sono le macchine? Assolutamente, dire questo significa ribadire un concetto fondamentale dell'evoluzione culturale. Le macchine sono solo l'evoluzione di quegli strumenti che hanno scandito il nostro modo di evolverci, dialogando, comunicando con gli altri. E dunque, se vogliamo davvero sapere chi siamo, cosa siamo, dobbiamo chiederlo alle macchine e all'interazione che noi abbiamo con le macchine. Questo significa sostanzialmente pensare con le macchine. Poi a quegli ascoltatori che temono di essere, come dire, invasi da computer o androidi intelligenti come noi o più di noi, e anche a quelli che magari pensano di poterli usare come strumenti di facile, come dire, accesso alla sessualità. Tengono conto questo. Uno, che stiamo... Tanto già esistono, le real doll sono già in realtà. Esistono, però facciamo un esercizio di futurologia o di fantascienza. Se esisteranno davvero un giorno dei computer che avranno una loro personalità, una loro coscienza, un loro gusto estetico, attenzione, potrebbero essere i robot che scarteranno gli umani o questi signori, perché magari non rientreranno nei loro canoni estetici, quindi non pensino di poterli di nuovo usare come degli strumenti, come fosse un frullatore o un oggetto appunto per divertimento erotico, perché nel giorno in cui avranno una loro coscienza, non solo avranno dei diritti e dei doveri, ma avranno anche un gusto estetico, e questi signori potrebbero essere bellamente scartati. Questo è il mondo che già contenuto nella profezia di Matrix, ma loro erano macchine naturalmente cattive che avevano rovinato il mondo, e quindi tenevano gli uomini un perenne sogno di mondo tradizionale come era una volta. In realtà non era più quello. Invece Morigi dice: le macchine una volta saranno loro, fra molto, a definire le categorie estetiche, il valore dell'umanità. Quindi attenzione, o ci adeguiamo o scompariamo. A domani.